and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago e un saluto anche da Tito. Sì, Tito, no, oggi no, è il weekend, si va in campagna, si va a correre liberi venerdì, Drago, non sì. Mi sembra nemmeno vero, le settimane si snocciolano via una dopo l'altra come i grani di un rosario. Però il fatto che sia venerdì non vuol dire che staremo con le mani in mano, K. No, anche so, oggi so. Dobbiamo parlare, bisogna anche rispondere al telefono. Cos'è che hai col telefono? Non lo so, oggi c'è veramente un casino. Ti ho detto di spegnere il telefono. Ti posso richiamare? Grazie, ti richiamo, sto registrando, ciao. Drago, non si tiene il telefono acceso durante io la trasmissione, lo sai. Io l'avevo spento, però sì, si è acceso da solo. Sì, bravo. Vabbè, dai, allora oggi come tutti i venerdì dobbiamo parlare dell'Italia come di enorme asilo infantile, fare le interviste sul campo e sorbirci i predicozzi di Suor Dentona. Ma quindi tutte preparati. Queste cose oggi. Sì, cominciamo dai ristoranti No Kids. Ristoranti sì, no kids. No kids, cioè niente bambini. Ma cos'è? L'apartheid? Sì, sì, il nuovo apartheid, da non confondere col part-time, sono i ristoranti per adulti dove i bambini non possono entrare. Ma c'è proprio come? Il cartello. Sì, sì, ma sì, alcuni ristoranti invece avevano cominciato a fare proprio i menù per i bambini, le pizze più piccole. Invece ci sono ristoranti per adulti. Per adulti, sì. Che vietano l'accesso ai bambini. Sì. Vabbè, allora non vanno lì solo a mangiare gli adulti, perché scusa, sono vietati. Ma sì, vanno a mangiare, niente di piccante, a parte qualche piatto col peperoncino, però ci devi andare solo con persone adulte, perché i bambini disturbano, questa è la spiegazione. Quindi i bambini disturbano, niente. Sì, capita ogni tanto al ristorante di sentire quelle signore che si girano e dicono: "Ma dov'è Erode?". Tu hai sentito davvero cose di questo genere? Eh vabbè, questo forse nei ristoranti no kids non avverrà più, perché queste signore possono mangiare tranquille senza bambini. Vabbè, ma se non puoi portare minorenni a cena, scusa, una tragedia per mezza classe politica italiana. Ma quelle minorenni, quelle minorenni sono le benvenute ovunque. A quelle mica devi cambiare il pannolino a metà cena. Vabbè, a loro magari no, ma certi vecchi che le accompagnano gli devi cambiare il pannolone. Vabbè, sei disgustoso. No, disgustoso, cioè, hanno tutti 70 anni, 80 anni, capita, è il pannolone. Vieni asilo. C'è un telefono che suona, è il mio. Ma no, veramente? Pensa a te. Ma cosa succede oggi? Io l'ho spento. Ma il telefono, io l'ho spento, tu anche, cosa suona? Suona veramente? Oh mamma mia, ma io non so. Niente, c'è qualcosa che non va oggi qui. Ma qui è strano però, no. Scusa, io l'avevo spento, ma allora anche tu? Sì, bisogna avvertire assolutamente tutte le autorità. Cosa stai facendo? Sto telefono provando autorità. A richiamare. Però è strano, c'è nessun numero, come faccio a richiamare? Se tu richiami come funziona? Non funziona. Beh, sta chiamando invece. Come sta chiamando? Sì, nessun numero. Ma come, se c'era nessun numero è impossibile che richiami. Già provato anch'io tante volte. No, ti dice no, non è ho richiamato. E chi ha risposto? Nessuno. Ah, vedi che richiamano. Pronto? Ah, ok, ciao, scusa, pensavo fossi nessuno. Can anybody find me? Somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me, somebody to love me. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. E adesso cos'è? Hai il cellulare in tasca? Spegniamoli! Ma no, veramente non ho nessun cellulare allora in tasca. Allora cos'è stato? Ma cosa? Ok che sei sordo, Drago, ma non hai sentito niente? No, ma cosa? Senti. Sì, sì, ecco, sì. E non è il mio cellulare, però io ce l'ho spento. Nemmeno il mio, no? Quindi non lo so. Ma da dove arriva, scusa? Aspetta. Sembra che arrivi dal bagno. Dal bagno? Sì. Ci sarà qualcuno in bagno. Aspetta, vieni. Attenzione. Aspetta. Il numero selezionato secondo me è inesistente. Tito, cosa ci fai in bagno? Attenzione. Ecco, senti, esce dalla turca. È inesistente. Arriva proprio da qua. È una stranezza. Attenzione. Ma scusa, un messaggio di telefonia mobile che esce fuori dal bagno alla turca dell'asilo? Ho capito, Cap, è l'antenna. Ma quale antenna? L'antenna di telefonia mobile che hanno tirato su qua vicino. Dobbiamo avvertire subito chi di dovere. È successa la stessa cosa a Brindisi poco tempo fa. Sì, l'hai già detto, ma di cosa ti preoccupi? Ma vabbè, ma sai che campi magnetici ci sono vicino a un'antenna così alta? Ma che ne sai tu di campi e magnetici? Non sai niente. Ma sì, abbiamo capito. Insiste. Il numero selezionato. Ma che numero puoi fare poi con un cesso alla turca? Un numero di Istanbul. Istanbul! E ora, bambini, ricreazione! Oh, che bello, venerdì, venerdì e fra poco il ponte. Ma quale ponte? La vacanza. Ma cos'è, il primo maggio, no? No. Ma cosa stai dicendo? C'è Natale, no? Weekend prolongé. Ma nessun weekend prolongé. Ma dai, ben cos'è, ritorniamo niente. Lunedì qui. E si ritorna lunedì. E allora facciamo in fretta, dai, che su, che voglio giocare, voglio riposarmi. Guarda, il bambino Alberto mi sembra diverso dal solito. Perché, cos'è? Ciao ragazzi. Oggi sono eccitato, Ecco, vedi, di solito è depresso. No, perché da oggi, finalmente, anch'io ho la mia canzone preferita. Facciamo la festa, cosa dobbiamo fare? È importante, perché fino adesso, quando mi chiedevano che canzone mi piaceva, a me venivano in mente solo quelle che ho imparato in casa, no? Dai miei genitori, sapete che sono comunisti, no? Ma canzoni comuniste? Tipo? Ma tipo canzoni popolari, no? Anche, tipo Sul Padrone. Oh mamma mia. Poi I Morti di Reggio Emilia. No, vabbè. Ivan della Mea. No, guarda, non è musica per un bambino della tua età. Infatti a me fa schifo, Vabbè, meno male. Solo che era l'unica musica che conoscevo. Fino a che, però... Fino a che? Fino a che ieri ho sentito questa canzone. Ve la faccio? Dai. Uno, due, tre, quattro. Down. Tenerone. Tenerone. Però aspetta, ma questa... K non è... Ma è la suoneria di un cellulare. Albertino, è la suoneria di un cellulare. Insomma, è una musica bellissima, Sai cos'è? Secondo me qui è colpa dell'antenna. L'antenna. Qui c'è un'antenna della telefonia mobile, qua vicino, e sembra che abbia degli strani effetti sugli abitanti della zona, quindi anche su voi bambini dell'asilo. Anche diverse versioni. Allora, senti che musica, Vabbè. Beh, in effetti non è male, immaginatela fatta da un'orchestra che fa... Immagini, se te le immagini ora anche mio nonno con un paio di ruote diventa una carriola e... Cosa vuol dire? In effetti mio nonno ha una canuccia in gola, però non è mica una bottiglia di gazzosa. Ma bambino Bergonzoni, dai, vabbè, comunque tu devi farti visitare da un medico. Ma chi? Subito, adesso, tu. Ma perché? Ma perché le onde dell'antenna possono averti modificato il cervello. Adesso sei fissato con le suonerie, ti è venuta sta cosa del... Ma lascia stare, gli piace solo una musichetta, no? Com'è che fa? Fermi. Voi siete condizionati dall'antenna. Smettetela. È colpa dell'antenna. Ma un momento. Anch'io mi sento irresistibilmente spinto a cantare questa musichetta. E ora, bambini, e la sonnellino. Ecco, adesso non fare storie e dormi, ok? No, invece io non ho sonno, adesso trattengo il fiato finché muoio. Vabbè, fai quello che vuoi, basta che stai zitto. No, non voglio neanche star zitto, quindi... Ma che noioso che sei! Ma noioso io, invece il sonnellino cos'è, divertente? No, ma bisogna farlo. Ma chi lo dice poi? Il regolamento. Ma io me ne frego del regolamento. Bravo, allora, dai, fai il ribelle a 40 anni, complimenti. Perché? Cosa c'è di strano? Il bambino Grillo fa il ribelle da anni, va benissimo, adesso quanti anni ha? Vabbè, 60, 70? Tutti i ribelli per 2 minuti di sonnellino, ti sembra un ideale da perseguire? A me sembra solo un capriccio puerile dei tuoi. Ma pensala come vuoi, intanto come vedi io e te non stiamo dormendo. Quindi sarai contento? No. Perché noi non stiamo dormendo, ma stiamo comunque sdraiati immobili sui lettini, quindi... Almeno quello bisogna farlo. No, io me ne frego, mi alzo. No, dai, non mi farlo. Alzo, no, sì, no. Invece sì. No. Aiuto! Aiuto, ma cos'è? Ma lascia, Drago! Io te l'avevo detto. Ma cos'è, Guantanamo? Un programma di Cap e Drago. torniamo lunedì. Sì, però prima dobbiamo salutare e ringraziare il bambino Alberto Caserini, la bambina Lucia Gadurini e il bambino Guido Bertolotti. E anche tutti i bambini a Radio 24. Chi la sono? Bambina Margherita, il bambino Carmelo, ciao. Il bambino Pietro, grazie. Il bambino Bo. Sì.